Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno Presidente, quanto tempo per favore? 16 minuti. Non male. Onorevole Palese. Buongiorno Presidente. Che può assolvere. Buongiorno a lei, onorevole Battisti. Buongiorno sottosegretario Rossi, manca il ministro Alfano, ma ce ne faremo una ragione. Vogliamo appunto coltivare la memoria, vogliamo anche cercare di capire perché siamo qua. Qualche anno fa l'Italia aveva un rapporto privilegiato con la Libia. Lo costruì l'ex presidente Berlusconi con un dittatore Gheddafi che il Movimento 5 Stelle non ha mai difeso. Non eravamo certo noi a baciare le mani a Gheddafi, eravate voi che gli baciavate le mani. Tuttavia abbiamo sempre ritenuto che destituire in maniera violenta i dittatori poi avrebbe provochi sempre una condizione peggiore di quella iniziale. Eccoci qua, 18 e 9 minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 20, 800 24 00 24. Oggi dibattito sulla Libia, dibattito, discussione politica eccetera eccetera, arriva Di Battista e cambia tutto, Di Battista show, sentenze, spara sentenze come se fosse in un talk show anziché in Parlamento, eravamo in Parlamento, inizia così dicendo ci siamo tutti, manca solo Alfano, vabbè ce ne faremo una ragione, come dire Alfano non conta un cacchio, cominciamo subito così. E poi l'argomento Libia, avete sentito Di Battista sulla Libia, baciavate le mani a Gheddafi, poi l'avete tirato giù e adesso sono cominciati i guai. Certo, vero, facile dire così Di Battista, sembra un disco rotto, però un po' come Renzi sul referendum del 4 dicembre, perché è stato tirato giù Gheddafi, non andava tirato giù, forse era meglio se rimaneva su, non si sa, ma anche se l'Italia non avesse partecipato alla festa libica avrebbe tirato giù lo stesso la Francia o l'America, quindi è inutile tornare a questa questione qua, guardiamo in avanti. Ma Libia, numeri alla mano, gli sbarchi stanno diminuendo, dice Quartapalle del PD. Quartapelle, lapsus. Vai. Come mai c'è stata questa riduzione? Le ragioni sono varie, ma ce n'è una che è importante per la discussione di oggi, e cioè che il calo di luglio è dovuto all'aumento degli interventi di pattugliamento e soccorso della Guardia Costiera Libica. Sì, sarà che sembrava un po' una palla questa del fatto che gli sbarchi sono diminuiti. No, ma in realtà è vero. Rispetto all'anno scorso siamo su quella quota lì, 95.000 circa. Cicchitto, che pur di andare contro il governo attuale, fa un discorso che sta in piedi così così. Sentite un po'. Noi dobbiamo fare i conti non con un'invasione, ma con una fuga di milioni di persone. Perché l'invasione, certamente all'invasione tu rispondi in una chiave militare, ad una fuga di milioni di persone tu non puoi rispondere con il dato militare e con i respingimenti. La risposta è molto più complessa e molto più difficile. Come fa a allearsi uno così con la Lega alle prossime elezioni? No? Un cicchitto umanitario, è una fuga di milioni di persone, non possiamo reagire militarmente. Ma torniamo a Di Battista Show, vai. Anche se Forza Italia era contraria, l'ha avallato piegandosi ai diktat di Sarkozy, del premio Nobel Hollande che poi ha chiesto scusa, e di Napolitano, perché un grande artefice di quell'intervento in Libia, un intervento criminale che è stato fatto e avallato da tutti quanti voi, è stato Napolitano. Qui si vede avanzare lo stato di lucidità che va e viene di Di Battista, che confonde Hollande forse con Obama e cita un premio Nobel inesistente, ma insomma tant'è. Oggi la sovranità di cui parlate tanto è stata minata, colpita, distrutta dal vostro appunto intervento militare di qualche anno fa. I francesi si sono di fatto beccati il petrolio, noi ci siamo beccati i barconi. Ecco, questa invece è una sintesi abbastanza calzante, precisa del momento attuale. I francesi si sono presi il petrolio, noi ci siamo presi i barconi. Non è che fosse oro quel che c'era prima, ma ci si comporta in maniera diversa, non si abbassa la testa, non ci si piega, non ci si mette a 90 gradi, non ci si comporta in maniera suddita. Non si fa questo quando si ha a che fare con l'interesse generale. E l'avete sempre detto voi che la questione libica era una questione di interesse generale, una questione strategica, addirittura di sicurezza nazionale. Tra poco sentiremo anche il battibecco con la Boldrini di Battista su un altro argomento, sui vitalizi, perché è saltato l'asse PD 5 Stelle sulla stretta, sul voto anche al Senato del provvedimento Richetti sull'abolizione dei vitalizi. La Boldrini l'ha richiamata all'ordine perché l'intervento di Battista era fuori tema, diciamo così. Però sentiamo ancora sulla Libia la Meloni. Se fosse un blocco navale, chiaramente Fratelli d'Italia voterebbe convintamente a favore. Ricordo che siamo stati noi, nel silenzio totale dell'arco costituzionale, a proporre per primi il blocco navale quando tutti dicevano che era irrealizzabile. Il punto è capire se effettivamente stiamo parlando di una proposta seria oppure del solito gioco delle tre carte del governo. Allora, credo che fosse in onda, vero, con Parenzo, tra l'altro, bravi, ci avevamo provato anche noi ieri ma non siamo riusciti a trovarlo, stati più bravi di noi, Bruno Rota, l'ex direttore generale dell'ATAC, si leva qualche sassolino dalle scarpe. Fino a 8 giorni fa è stata entusiasta di questo problema, di questa soluzione. Se ha cambiato idea, è un suo diritto, lo spiegherai ai romani. Io ho capito che non c'era più il consenso di prima e ho fatto una semplice cosa. Mi sono alzato e me ne sono tornato a casa, tranquillamente. Allora, da quel messaggino non viene fuori niente di più di quello che c'è scritto. Cioè, che io non trovo assolutamente normale che un consigliere comunale di qualsiasi partito, non dei 5 Stelle, di qualsiasi partito, chiaro, incontri i fornitori potenziali di un'azienda. Lo trovo anomalo completamente. Rota, che in realtà ha chiamato lui il programma perché si parlava dell'ATAC, allora ha sentito il bisogno di intervenire. Qua era sulla questione dell'SMS dell'esponente del Movimento 5 Stelle che gli aveva segnalato un'azienda, atto di indirizzo secondo Di Maio, atto di indirizzo politico, raccomandazione secondo altri per Rota, che è un manager al di sopra di ogni sospetto perché ha un passato super specchiato alle spalle. Lui dice non è normale questa cosa qua. Vabbè, lo dice lui, non è normale, questo è il suo punto di vista, tant'è. Oggi però conferenza stampa a Roma di Casaleggio, c'era un giornalista spagnolo, Casaleggio, che è sceso proprio a Roma anche fisicamente per andare a dare una mano alla Raggi, sempre più avviluppata nelle difficoltà, questo possiamo dirlo, perché insomma diamole il tempo, giusto, vero, diamole il tempo per risolvere i problemi millenari, vogliamo dire, di Roma, però insomma, qualche problemino anche lei ce l'ha, sta inciampando qua e là. Casaleggio risponde alla domanda di un giornalista spagnolo che così ingenuamente quasi gli chiede quello che insomma, noi abbiamo smesso di chiedergli, ma che è lì sotto gli occhi di tutti. Il giornalista si chiama Eusebio Val. A volte all'estero abbiamo un po' di difficoltà a capire che veramente il Movimento 5 Stelle. Sono due domande per il signor Casaleggio. Lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, democrazia diretta, ma a lei chi lo ha eletto, signor Casaleggio? Io non so, forse c'è stata una votazione, un'assemblea, ma io non so chi lo ha eletto a lei per questo ruolo così importante che ha nel Movimento. La domanda è precisa, a lei chi l'ha eletto, ma lei da dove viene, da dove sbuca, che ruolo ha, cosa fa? Noi lo sappiamo chi è, il figlio di quello che insieme, vabbè dai, senti la risposta. Non ho cariche elettive, non siedo in Parlamento, non siedo al Comune, ho sempre dato il mio supporto gratuitamente. Non chiedo un stipendio al Movimento 5 Stelle, sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il Movimento 5 Stelle in questi anni. Cioè, non chiedo lo stipendio al Movimento 5 Stelle, vorrei anche vedere, per comandare mi faccio anche pagare, vi comando io e mi dovete anche pagare. No, vabbè, dai, 800 24 00 24, abbiamo delle altre cose a farvi sentire, però ce l'abbiamo le altre cose, però ci abbiamo anche il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari amici del Movimento 5 Stelle all'ascolto, che ci scrivete al 349-238-6666, vi voglio bene, molto molto bene, vi sono anche molto vicino, più vicino di quanto crediate, guardatevi attorno, sono lì, sono vicino a voi. Però basta vittimismo, stop vittimismo, a buttare fango sul 5 Stelle, ma non buttiamo nessun fango, scusate, cioè... Di Battista mi scambia Orlando con Obama, lo chiama premio Nobel e noi cosa dobbiamo? Non dovremmo riderci sopra, ma dai, ma stavo scherzando, ma veramente, dai, è occasione troppo golosa. No, non si fa così. Però, anzi, su questa cosa qua diamo ragione tranquillissimamente a Di Battista, perché lui interviene su una cosa con la Boldrini, si battibeccano, lei lo redarguisce, stia zitto, adesso sentirete, però lui gli dice come fa lei, perché lei dice a un certo punto, guardi che il provvedimento sui vitalizi va al Senato, stia tranquillo, sarà votato dal Senato, e lui gli dice, ma tu sei presidente della Camera, che ne sai di quello che accadrà al Senato? C'ha ragione, sentite un po'. Poc'anzi lei ha detto, la legge al Senato verrà votata, lei si può prendere questo impegno da Presidente della Camera? Cosa ne sa lei che cosa succederà sulla legge sui vitalizi? Chi ci garantisce che non verrà affossata? Chi ci garantisce che non verrà annacquata? Chi ci garantisce che non verrà modificata per rispedirla qui alla Camera e per non veder mai approvata una legge sul taglio dei vitalizi e non farla mai diventare legge dello Stato? Lei si può prendere questa responsabilità? Questo non è un richiamo al regolamento, no. Onorevole Di Battista, comunque c'è un iter in corso. Sto concludendo. Quindi, il richiamo al regolamento. Non c'è un richiamo al regolamento, mi dispiace, lei sta facendo un intervento nel merito. Onorevole Di Battista, la richiamo all'ordine, lei non può parlare adesso, la smetta, lei ha terminato il suo intervento perché non era un richiamo al regolamento, si attenga alle regole. La richiamo all'ordine per la seconda volta, onorevole Di Battista, la smetta. Allora, guardi, onorevole Di Battista, esca da quest'aula, si allontani dall'aula. Qua, un tratto boldriniano proprio di quelli, esca da quest'aula, con la, proprio da maestrina, vabbè, ma in quel caso lei svolge il suo ruolo. Però sul punto ci sentiamo di dare ragione, invece questa volta, a Di Battista. Cosa ne sa la Boldrini di come andrà al Senato? Vabbè, però c'è una teoria sul fatto di Hollande, premio Nobel, dice un'ascoltatrice che ci scrive, era ironico per dire quel gran premio Nobel di Hollande, per sminuirlo. E quindi, Di Battista avrebbe scelto questa strada narrativa. Può darsi, però io sento il rumore degli specchi, dell'arrampicata sugli specchi. Vabbè. Ma naturalmente siamo qua 800 24 00 24 per parlare di questo, dell'attualità di serata, ma anche per raccontarvi una storia come quella che sentirete tra poco, perché stiamo per parlare con un grande sindaco, un paladino della legalità, uno che ti verrebbe voglia proprio di abbracciarlo, questo qua, quando lo vedi, tanto è alla faccia di una persona onesta. Infatti i suoi amici di giunta Allicata, diciamo anche la città, lo stanno per sfiduciare, certo, perché in Italia si fa così, quando c'è uno bravo si fa fuori prima possibile. E lui è Angelo Cambiano, buonasera. Salve, buonasera. Sindaco di Licata. Allora, la vicenda è questa, sindaco, la raccontiamo per chi non la conoscesse, perché merita di essere raccontata. L'ultima villetta abusiva a Licata è stata fatta abbattere, è stata demolita poche settimane fa. Era la 67esima nel giro di 2 anni. Però lei ne ha in elenco diverse altre decine di case con sentenza definitiva giudicate abusive da demolire, perché a differenza di altri sindaci lei questa cosa l'ha presa alla lettera, bisogna demolirle e allora demoliamole. Io ho detto un grande sindaco, però ancora per poco, perché c'è una mozione di sfiducia, vero, la settimana prossima, dei suoi colleghi di giunta. Sì, ha detto bene, io ho semplicemente fatto il mio dovere, quindi ho rispettato un ordine della Procura della Repubblica di Agrigento che sancisce la demolizione di manufatti abusivi che insistono a 350 metri dalla battigia. Sono stati demoliti circa 67 immobili, tutte seconde case entro i 150 metri dalla battigia. Ho semplicemente fatto il mio dovere, ma in questa terra probabilmente fare il proprio dovere non sempre paga. Ecco, infatti arriviamo al punto, perché il 9 agosto c'è questa mozione di sfiducia nei suoi confronti. Chi l'ha proposta? Perché invece di farle un monumento, non so io, un sindaco che ci sta portando avanti tutti nella direzione giusta del rispetto della legalità, finalmente, eccetera, eccetera, no, mozione di sfiducia. Su questo io ci tengo a precisare che non desidero né monumento né mi sento paladino di niente. Io sono un normalissimo è giusto che lei lo dica, lo dico io che ci vorrebbe un monumento per lei, un normalissimo ragazzo, lo metto tra virgolette, di 36 anni, che vive del proprio lavoro. Sono un insegnante di ruolo, insegno matematica, e credo che nelle enormi potenzialità di questo territorio, e volevo spendermi per questo territorio, e credendo che lo sviluppo di queste terre splendide passa per il rispetto delle regole. La mozione di sfiducia viene proposta da 16 consiglieri comunali di opposizione, che hanno ben pensato naturalmente di porre termine a questa esperienza, perché molto spesso, come ho già detto, la politica è alla ricerca del consenso e non delle soluzioni o delle cose però giuste. Che possa tirare una brutta aria attorno a lei, da cosa si capisce? Dal fatto che questi consiglieri di opposizione potrebbero però fare breccia anche, ahimè, invece nella maggioranza che fino ad oggi l'ha sostenuta, perché questo potrebbe essere il punto. Altrimenti l'opposizione fa il suo lavoro, la vuole mandare a casa, però lei sta lì. Lei teme che ci possa essere questa, che possa venire meno la maggioranza? No, guardi, io non temo niente, come ho detto, non temo la sfiducia, perché non faccio politica per professione, non è un mestiere. Naturalmente non ho mai avuto la maggioranza, perché sono stato eletto, dico, con delle liste civiche in contrapposizione a un altro candidato sostenuto da 7 partiti e liste civiche che andavano dal PD, NCT, MPA, all'ex MPA, a Sicilia Futura, a Sicilia Democratica. Quindi non ho mai avuto la maggioranza e sono stato abituato a lavorare senza avere a vista fino ad oggi, e continuerà a farlo anche domani. Quindi 9 agosto, mozione di sfiducia, vedremo come andrà a finire. Noi ci sentiamo di fare un appello a tutti i licatesi, onesti, brave persone, che quel giorno vadano fuori al Consiglio Comunale magari a farsi sentire, no? Perché no? Ci starebbe. Senta, l'ultima villetta, ha detto una villetta buttata giù, demolita, perché non stiamo parlando di prime case, di persone che bene o male ci abitano, che hanno la necessità, seconde case con piscina a 100 metri dal mare, abusive. Sì, entro i 150 metri costruite abusivamente, però naturalmente i cittadini ricatesi percepiscono tutto questo come un'ingiustizia, come una scelta fatta da un sindaco che cerca visibilità, perché nel contesto regionale avviene poco o nulla. Il contrario, diciamo pure che avviene spesso. Ci sono 50.000 immobili entro i 150 metri dalla battigia, giustamente c'è il sindaco cattivo a cui incendiamo le case, lo minacciamo di morte perché solo perché sta facendo il proprio dovere. Perché, insomma, è chiaro, il conto si fa presto, no? 67 case abolite tra abbattute tra amici, parenti, zii, cugini, eccetera, insomma, ci saranno diverse centinaia di persone quantomeno a cui lei ha tirato giù la casa, che ce l'hanno con lei, questo è ovvio, però ci sarà qualcuno che invece le stringe la mano quando lo incontra per strada? Ma c'è una parte di città, naturalmente, dico, di perché Licata è una città fatta di gente per bene, onesta e laboriosa, però operare in un contesto in cui politicamente naturalmente hai tante persone che remano in direzione contraria non è semplice. Speriamo che questa parte per bene per la città si faccia sentire, che possa passare un messaggio di rispetto delle regole, da cui passa lo sviluppo della nostra terra. Il rispetto delle regole, perché secondo lei, perché il suo caso purtroppo, dico io, è diventato un caso eclatante, perché spesso altri sindaci non hanno la stessa determinazione, la stessa forza, la stessa voglia di mettersi contro tante persone, o non trovano neanche le risorse a volte per fare queste demolizioni. Come mai è così difficile tirare giù quello che invece lei ha fatto tranquillamente a Licata, tirare giù gli edifici che sono giudicati con sentenza definitiva come abusivi. È così difficile perché la politica ci ha sguazzato per 30 anni, perché adesso ci prepariamo alla prossima campagna elettorale per le regionali e si potrà andare in giro dicendo o chiedendo il voto, il consenso alla gente, promettendo magari una sanatoria o promettendo di salvare un immobile che insiste in 350 metri dalla battigia. Naturalmente intervenire dopo 30 anni e scaricare su un sindaco tutte le responsabilità naturalmente che non gli appartengono, poi genera questa situazione in un contesto in cui, ripeto, la politica ti considera quasi come un appestato da emarginare, perché non sostenere me non dà consenso sicuramente, e quindi dico, questa è la mia situazione, è l'anomalia di una vicenda che mi sta facendo pagare un prezzo altissimo a me e alla mia famiglia, perché vivo cosa dicono cosa dicono i suoi familiari di questa situazione? Ma chi te l'ha fatto fare? Perché l'amore per questa terra è la risposta. Ma andrà avanti, sindaco? Cioè, qualora dovesse essere anche, mettiamo, sfiduciato, poi questo mandato finirà, lei continuerà a far politica? Per esempio, se la sfiduciassero, ci sono le elezioni regionali. No, guardi, non ho intenzione di candidarmi alle elezioni regionali. Naturalmente è troppo presto per dire e per interpretare uno stato d'animo da qui a qualche giorno. Per adesso posso solo dire che lavorerò fino all'ultimo giorno in cui sarò sindaco di questa città, e poi naturalmente le valutazioni verranno fatte a posteriori. Grazie Angelo Cambiano, sindaco di Licata, in bocca al lupo naturalmente, ci risentiremo, la notizia quantomeno la daremo, e speriamo che il voto vada al contrario di come vorrebbero farlo andare. Grazie. Noi vi aspettiamo dopo la borsa, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Poco fa in conferenza stampa il procuratore di Trapani ha spiegato la vicenda della nave della ONG tedesca Jugendrettet, la Juventa, che è stata fermata dalla Guardia Costiera, però su ordine della magistratura di Trapani, con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, se abbiamo ben capito. Anche se esponenti della ONG hanno detto la nave non è stata confiscata, si tratta di una procedura standard, ci hanno chiesto i documenti, così cos'ha, le indagini sono contro ignoti, non contro di noi. Però questa è una vecchia inchiesta della Procura di Trapani, che come sapete va avanti da un po' di tempo, su presunti contatti tra alcuni membri di queste ONG e gli scafisti. Tra l'altro la Jugend, questa qua, questa ONG non ha firmato il codice di comportamento che è stato proposto e imposto due giorni fa dal governo italiano. Sentiamo il procuratore di Trapani. Alla luce della legislazione tuttora in questo momento vigente in Italia, quali che siano le finalità perseguite dall'equipaggio della Juventa, ad avviso della Procura della Repubblica di Trapani, queste condotte integrano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'oggetto dell'indagine in questione è concernente il reato di immigrazione clandestina. Sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del reato di immigrazione clandestina commesso da soggetti che operano a bordo di una imbarcazione che si chiama Juventa e che è utilizzata da una organizzazione non governativa denominata Jugendrettet. Allora, cari ascoltatori, vi aspetto 800 24 00 24. Siamo partiti però stasera dall'intervista col sindaco di Licata, Angelo Cambiano, che sta portando avanti pacatamente la sua battaglia per la legalità. Se volete potete chiamare anche per questo, per dare il vostro sostegno, perché fra un poco, fra qualche giorno gli voteranno una mozione di sfiducia e sarebbe bello che avesse il nostro sostegno un uomo che sta portando avanti appunto una pacata battaglia, chiamiamola così, per il rispetto delle sentenze della magistratura che impongono a quelle case abusive, fra l'altro seconde case con piscina a 100 metri dal mare, di essere abbattute. Altrimenti chiudiamo direttamente tutto, magistratura, Stato, eccetera, perché non serve più niente a niente. Invece, se serve a qualcosa, serve a farle rispettare quelle sentenze, e lui lo sta facendo. Però tra qualche giorno la sua giunta potrebbe dargli il ben servito. Andiamo con Franco, chiama da Alessandria. Benvenuto. Pronto? Pronto. Buonasera. Stavo ascoltando, ero in macchina e stavo ascoltando l'intervista al sindaco di Licata. Sì. Volevo congratularmi con questo ragazzo, perché l'età che è per Beh, me sì, è 36 ragazzo. Anni è un ragazzo, certo. È un ragazzo il quale sta combattendo... 10 anni meno di me, quindi è un bambino quasi, quasi un bambino. Sì, di 30 meno di me. Stavo volendo congratularmi con lui perché sta portando avanti una battaglia pazzesca, in una realtà pazzesca. Tra l'altro ho sentito una voce stanca e delusa e amareggiata. Ma mi pongo una domanda. Perché a fronte di sentenze passate in giudicato, nello specifico per la demolizione di queste case abusive, non interviene lo Stato centrale, mandando magari l'esercito, evitando ai sindaci che sono in prima linea di dover poi subire angherie, minacce e quant'altro? È questo che io non capisco. Non capisco perché... uno Stato centrale, un governo. Beh, ma guardi, Franco, lo Stato in quella situazione lì, lo Stato è il sindaco sì, di Licata, è Cambiano, ma sono anche le forze di polizia che sono andate a sostenere le demolizioni quando c'è stato qualcuno che si voleva mettere di mezzo. Le ultime demolizioni, a dire la verità, ormai i cittadini di Licata, tra l'altro alcuni abitano all'estero ormai, hanno proprio la seconda casa per venire a fare vacanze lì, si sono arresi a questa evidenza, no, le proteste non ci sono state neanche più, quindi lo Stato è presente dove c'è il sindaco di Licata che fa rispettare la sentenza della magistratura. Io sono felicissimo che ci sia lo Stato diciamo interpretato, impersonato dalle forze dell'ordine, però è altrettanto vero che comunque le minacce al sindaco e alla famiglia, da quello che ho percepito, arrivano comunque, perché in definitiva chi è l'autore delle demolizioni? È in questo momento il sindaco di Licata, è questa persona. Che poi ci siano le forze dell'ordine che lo sostengono e quant'altro, siamo perfettamente d'accordo, però nel momento in cui lui va a casa e si chiude in casa, è lui con la sua famiglia, gli altri non ci sono. È questo che volevo dire, e volevo esprimere solidarietà a quest'uomo, perché mi sembra che... Gliela giriamo al sindaco di Licata, gli arriva direttamente, così come spero arriveranno tante altre telefonate a suo sostegno questa sera. Sentiamo ancora il procuratore di Trapani sulla vicenda della nave tedesca Jugendrettet, che è stata fermata, posta sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sui presunti contatti tra scafisti e membri dell'ONG, in cui dice un passaggio in cui dice proprio espressamente che queste navi non fanno tanto un vero e proprio salvataggio di persone, ma fanno dell'altro. Sentite. Questa imbarcazione, seppure in qualche caso interviene per salvare delle vite umane nel mare Mediterraneo, in più casi invece questi interventi in mare da parte della Juventa avvengono non già per salvare dei soggetti che si trovano in imminente pericolo di vita, ma semplicemente per trasbordare sulla imbarcazione dei soggetti che vengono scortati dai trafficanti libici. Allora, e questo era il procuratore di Trapani. Andiamo con Fulvio da Cuneo. Buonasera, benvenuto. Vai Fulvio. Buonasera, intanto sostengo pienamente l'operato del sindaco di Licata, ha tutta la mia stima e interpreta, secondo me, anche perché conosco molto bene la realtà siciliana perché ho operato proprio in edilizia per 5 anni, l'indirizzo dato da Falcone Borsellino proprio sulla giustizia e sulla legalità. Io spero che i cittadini una volta tanto insorgano e più che altro sostengano questo sindaco, perché se lo merita lui e la sua famiglia, ma soprattutto la comunità. Aggiungo solo questo: sono stato presidente della commissione urbanistica lavori pubblici di una città di 22.000 abitanti nel profondo nord a Cuneo. Mi chiedo soltanto, sì? Ma negli anni passati i funzionari, quindi al di là del fatto che non è stata rilasciata la concessione edilizia, ma i funzionari, quindi il comandante dei vigili urbani, il dirigente responsabile del settore lavori pubblici, eccetera, eccetera, che cosa hanno fatto per bloccare i lavori, sapendo bene che realizzare una casa ci vuole almeno un anno? Ecco, allora diciamo che in passato, Fulvio, ci sono state altre amministrazioni, altre giunte che hanno chiuso un occhio, due occhi, tre occhi, addirittura hanno concesso gli allacciamenti, gas, luce, eccetera. Ci sono stati forse anche dei condoni. Sono sentenze che guardano indietro, facendo tutta un'analisi di quello che è stato il percorso con cui sono state costruite queste case. Magari in un determinato momento potevano anche apparire condonate o condonabili o in qualche modo legali. Adesso fatto sta che siamo giunti a una conclusione opposta. Sì. Mi permetta, però, io mi metto anche nei panni di chi ha realizzato quelle case abusive. Sì. Allora, al di là del fatto che sono assolutamente solidale con il sindaco, però si metta nei panni di soggetti che hanno ottenuto da una mala politica piuttosto che da una mala amministrazione la possibilità di costruire. E oggi, con un sindaco finalmente onesto e un'amministrazione onesta, diventa onesta nel momento in cui non sfiduciano il sindaco, dal mio punto di vista, se no sono conniventi con quelli che ci sono stati prima. Però si mettono i panni di chi si trova oggi a vedersi demolito un qualche cosa che nel passato invece non ha avuto nessuna difficoltà. Però, Fulvio, che al di là di tutti i bizantinismi della legge italiana, è un qualche cosa che è nato abusivo, è proseguito abusivo e sta morendo abusivo. Infatti si tratta di persone che hanno seconde case, addirittura alcuni non si sono presentati nemmeno al momento della demolizione perché sapevano benissimo che non c'era niente da fare, case con piscina che altrimenti potrebbero avere un valore di mercato elevatissimo, fatte in spregio delle norme esistenti. Quindi questo è un po' il punto. Poi sai, bisognerebbe forse andare a guardare caso per caso, però lì c'è una sentenza definitiva della magistratura e il sindaco fa bene ad eseguirla. Questo è quello che penso io, almeno. Grazie, buona serata. Facciamo anche Paolo da Brescia? Sì, poi andiamo sul traffico. Paolo, vai. Buonasera, sono Paolo da Brescia. Io volevo intanto mettere al corrente che è di oggi la notizia che il delfinario di Rimini verrà chiuso anch'esso per abusi edilizi, quindi il tema è d'attualità. Ma io, oltre a esprimere la mia vicinanza con il sindaco di Licata, volevo invitare il sindaco o Radio 24 a cercare di capire quale sarà il testo sulla sfiducia al sindaco, perché è bene che vengano portati allo scoperto, che siano franchi tiratori o che facciano il loro dovere di opposizione, avranno un testo sul quale hanno lavorato e non ci sarà senz'altro scritto sfiduciamo il sindaco perché fa il suo lavoro, e avranno preso dei pretesti che siano i più banali o i più seri. Lavoriamo sul testo, cerchiamo di comprendere quali sono le bugie o comunque i pretesti per farlo fuori, e cerchiamo di comprendere quale sarà la loro strategia. Perché è evidente... A quello che abbiamo capito, Paolo, dicono che il sindaco si è montato la testa, che vuol fare lo sceriffo, che decide tutto di testa sua, insomma stanno cercando di fargli un po' terra bruciata intorno, come capita spesso in queste circostanze. Poi non so, ci saranno anche altre motivazioni, però sinceramente credo che siano motivazioni pretestuose. Grazie. C'era Mattarella oggi ad Amatrice ed Arcuata. Occorre la ricostruzione della macerie, la ricostruzione per dare un far tornare non soltanto Amatrice ma anche gli altri comuni che ho già visto, Arquata e Accumoli, alla condizione in cui erano prima, e per affrontare in maniera anche più sicura il futuro che hanno davanti. I passi avanti fatti sono incoraggianti, naturalmente non cancellano in niente quello che occorre, che manca, le lacune che vi sono e gli impegni per tutti i passi da fare per soluzioni che siano definitive. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, intanto arriva una selva, un profluvio di messaggi in solidarietà al sindaco di Licata, tantissimi, bene, benissimo, siamo felicissimi per lui, ci fa piacere, non poteva che essere così. Poi non poteva mancare l'ascoltatore interista che dice, come poteva chiamarsi la nave che trasgredisce le regole se non Juventa? E questa non è male. E adesso invece abbiamo detto, Mattarella era da Amatrice ed Arquata, da Norcia, e per le esattezza da Castelluccio di Norcia arriva una buona notizia, perché dopo tanti tormenti ieri è stata una bella giornata, e con noi Gianni Coccia della cooperativa Lenticchia di Castelluccio, la famosa Lenticchia di Castelluccio di Norcia. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera. C'è stato il raccolto, finalmente, un raccolto allora, tormentato. Sì, diciamo che fortunatamente ieri abbiamo avviato il raccolto qui a Castelluccio, sì. Dopo aver superato grandi difficoltà nel mese di marzo-aprile, perché dove le strade... Non si poteva neanche arrivare su, insomma, questo era il problema. Ma com'è andato il raccolto? Ci racconti un po' dello spirito con cui è stata vissuta la giornata di ieri. Allora, ieri abbiamo iniziato la prima trebbiatura a Castelluccio e tutti quanti entusiasti di quel momento, perché era il momento un po' della rinascita di questo paese, di tutte le attività locali che vivono di questo pane, siamo tutti andati per festeggiare tutti insieme il momento più importante, quello del raccolto. Com'era questo raccolto? Com'è stato? Perché so che avete avuto anche, oltre ai vari problemi, anche il problema della siccità quest'anno, che riguarda un po' tutta Italia. Purtroppo sì, tutta Italia è stata interessata dalla siccità e a Castelluccio anche non ha fatto sconti, quindi pure Castelluccio, nonostante sia a 1500 metri di altezza, dove qualche temporale cade sempre, anche lì però purtroppo il fenomeno della siccità ha interessato la piana, e quindi noi pure avremo una riduzione della produzione rispetto a quello che era lo storico, che si aggira da un 20 a un 30% di calo. Però c'è stata anche la fioritura, no? La famosa fioritura, che è bellissima da vedersi, io non sono mai stato, però basta cercare le foto su internet, si vedono, sono bellissime. Assolutamente sì, le lancio un invito per l'anno prossimo, perché adesso ormai è passata, ma noi diciamo sempre che verso la fine di giugno è il periodo migliore per poter visitare Castelluccio e goderlo nel massimo splendore dei suoi colori. Tutti gli anni, grosso modo, verso la fine di giugno abbiamo tutta la piana fiorita, tutta la piana di Castelluccio, dove è un momento veramente magico. Qualcuno dice sembra di arrivare in paradiso, vedere tutta questa tavola di colori che varia dal bianco, dal il giallo delle margherite, piuttosto l'azzurro dei fiordalisi, il rosso dei papaveri, tutta una varietà sì, di colori. C'è, ogni fiore ha un suo colore, e anzi sono tanti fiori che crescono attorno alla lenticchia, ecco perché c'è questo tavolozza di colori, è incredibile, eccezionale. La lenticchia di Norcia è un prodotto che esportate quasi in tutto il mondo, è così? Assolutamente sì, e diciamo che è molto richiesto in Italia, perché chiaramente è un prodotto di eccellenza, IGP. La Comunità Europea nel 1997 ha conferito questo riconoscimento alla comunità di Castelluccio, riconoscendo la lenticchia di Castelluccio indicazione geografica protetta. Fin dove arrivate con l'esportazione? Cioè, qual è il mercato dove siete più forti? Abbiamo esportato negli Stati Uniti, in Giappone, anche in Giappone è molto richiesta, e anche nei paesi d'Europa, quale Regno Unito, Gran Bretagna, quindi anche in Germania, un po' da tutte le parti, diciamo, ce le chiedono. Senta, per il resto, come sta andando un po' la situazione lì Castelluccio di Norcia, nella zona di Norcia, per quanto riguarda la ricostruzione più in generale, perché sono andate distrutte capannoni, case, le strade, abbiamo detto? Purtroppo sì. La prima cosa che dobbiamo mettere in campo è la viabilità. La viabilità è la prima cosa che deve essere ripristinata, perché quella ci dà la possibilità di poterci muovere più agevolmente e anche far arrivare una parte di turismo che oggi manca veramente. Poi c'è la difficoltà purtroppo delle abitazioni, che tante case sono state distrutte, Castelluccio completamente distrutto, Norcia, anche Norcia ha subito gravi danni, e oggi si sta cercando di far rientrare tutte le persone che ancora sono in autonoma sistemazione piuttosto che in albergo, dando delle SAE, delle soluzioni emergenziali praticamente, delle piccole casette dove possono rimanere fino al periodo in cui non verrà ricostruita la propria casa. Sì, e però questo, i tempi per questo invece sono molto lunghi, non si intravede ancora l'inizio di una vera ricostruzione. Mi sembra di capire. Al momento no, diciamo che al momento si sta studiando, le istituzioni stanno cercando di capire come intervenire su tutto il territorio di Norcia, Castelluccio e tutte le frazioni. Al momento, diciamo, sono in fase di studio. In questo momento la priorità viene data a tutti coloro che sono fuori, quindi a sistemare la prima emergenza, cioè quella delle casette, di poterle sistemare quanto prima per poter arrivare a settembre. Chi ha i figli fuori deve rientrare. Quindi per poter soluzioni ancora temporanee, vabbè, insomma. Purtroppo lo sappiamo, la strada è lunga. Noi siamo però intanto contenti di poter registrare questo momento di entusiasmo che si è vissuto in queste ore per il raccolto della famosa lenticchia di Norcia, di Castelluccio. Grazie Gianni Coccia per essere stato noi, per averci regalato questo momento appunto di entusiasmo, vogliamo dirlo, sì. Benissimo. Grazie, in bocca al lupo per tutto, a presto. Evviva il lupo, grazie. Allora, le lenticchie fanno bene, portano anche soldi, quindi meglio di così. Riccardo da Lodi, buonasera. Sì, buonasera. Niente, io chiamavo a favore sempre, in appoggio al grande operato del sindaco di Licata. È una storia che avevo già sentito, dicevo alla ragazza, sì, la mattina con Giannino e Milan. Purtroppo certo, ho sentito anche, vabbè, lui l'ha sfiorata la cosa, ma gli hanno bruciato anche una casa, penso dei genitori, adesso non mi ricordo. Niente, che dire, una grande persona, queste sono le persone che dobbiamo sostenere, le poche persone oneste che ci ritroviamo ancora nel anche Parlamento. Anche perché in questo momento, non tanto in Parlamento quanto in Comune Alicata, ancora certo, per poco, perché appunto è possibile che gli votino la sfiducia. Quindi appunto, e difatti proponeva la ragazza, controvotiamo, apriamo un sito, una pagina sulle 24 ore e raccogliamo le firme a favore di questa grande persona. Va bene, grazie Riccardo, è un'idea, perché no. Massimo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senti, il mio intervento era, allora, innanzitutto la premessa, perché un elogio grandissimo al sindaco e al suo operato, quello là sottointeso, però la cosa che io credo che lui abbia un attimino un po' sbagliato è quello di non aver avuto, diciamo, la coscienza che non aveva tutta, diciamo, la forza politica che gli stesse addosso, attorno, non addosso, mi scusi. Nel senso che lui, cioè, non si sarebbe premurato di avere una maggioranza politica che lo sosteneva. Esatto, in effetti adesso lui va incontro a una sfiducia, e sì, in effetti già lui, il suo intervento era quello che già ha detto che non sa se si ricandida anche alle regionali e quant'altro. E questa cosa secondo me è stato anche un grandissimo sbaglio, perché ha messo lui davanti a, diciamo, a delle minacce, a delle cose che sinceramente è una cosa un po' brutta, ecco. Ma poi lui è una mosca bianca probabilmente nell'ambito della politica siciliana, non a caso si è candidato con delle liste civiche, ha incontrato, diciamo, il favore dei cittadini, lo hanno votato e sta su per quello, però sta su anche col sostegno dei consiglieri comunali che possono toglierglielo in un qualunque momento, e questo è il problema. Il suo suggerimento, Massimo, era quello di organizzarsi meglio dal punto di vista del sostegno dei partiti. Può darsi che abbia ragione. Massimo, Vittorio da Roma, vai, che siamo quasi in chiusura. Ciao, buonasera. No, io volevo dire solamente che i siciliani non facessero le fiaccolate dopo che si eroi sono morti, no? Le facessero prima. Per quello noi l'abbiamo intervistata adesso, perché ancora morto non è, esatto, politicamente però, parlando. Falcone, Borsellino, piangiamo tutti. Fate prima qualcosa, no? Ci vorrebbe una bella reazione, sono d'accordo, dei cittadini di Licata. Io l'ho detto il giorno del consiglio comunale, che andassero tutti lì sotto a dire no, stiamo con il nostro sindaco e la legalità. Sicuramente le persone oneste sono di più, non è un problema. Certo. No, il problema è che sono nascoste. Se non vengono fuori è inutile che fanno la fiaccolata dopo. Non è il momento di essere timidi, mettiamola così, sono d'accordo. Grazie Vittorio, devo dare la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Copiamo la musica, la moda, i jeans, usiamo gli stessi telefonini ormai in tutto il mondo. Non è arrivato il momento di scambiarsi anche le idee? Spunti di Vista è un programma di attualità che mostra soprattutto ciò che funziona nel mondo per creare un circolo virtuoso grazie proprio alla conoscenza reciproca. Le voci, le tendenze dai posti di lavoro, dalle università, dalle strade. Sono Irene Zerbini. Vi aspetto sabato dalle 10 alle 11 e domenica dalle 8 alle 9, dal 5 agosto, su Radio 24. Spunti di Vista. Si importano idee. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi in Italia abbiamo un governo, non lo so, balneare, passeggero, senza alcuna legittimità popolare e quindi senza alcuna legittimità in politica estera. Ed è per questo che di fatto Macron riesce a organizzare quell'incontro a Parigi e voi non siete riusciti a organizzare quell'incontro importante a Roma, cosa che il Movimento 5 Stelle vi disse e chiese nel febbraio del 2017. Io, Presidente Giachetti, reputo, questa è una mia valutazione politica, Presidente Napolitano il massimo responsabile dei disastri che sono stati commessi in Italia negli ultimi anni. Oh, vabbè, dai, diciamolo una cosa a favore di Di Battista, ci ha tenuto in piedi, allegra la giornata. Oggi una calda giornata d'agosto che altrimenti sarebbe stata una piatta giornata d'agosto. Bravo Di Battista. 800 24 00 24, chissà se fa caldo anche nello spazio. Paolo Nespoli, sentiamolo il suo messaggio. Qui parla anche della possibilità, si è detto tante volte, di fare turismo laggiù tra le stelle. Personalmente sono molto contento che ci sia questa evoluzione dove lo spazio non è più il privilegio di poche nazioni, di poche persone e di governi che possono permettersi di avere dei fondi quasi limitati se lo vogliono. Tra una decina d'anni, 20 anni, quando i prezzi si abbasseranno, forse anch'io potrò comprarmi un biglietto per andare a fare un giro di nuovo nello spazio e questa volta essere appiccicato alla finestra tutto il tempo e godermi questa microgravità in pieno. Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and. È con noi Giorgia Benusiglio, buonasera, benvenuta Giorgia. Buonasera, grazie dell'invito. Autrice del libro, tra l'altro lei è una blogger, l'avrete sentita altre volte anche su Radio 24, autrice del libro Vuoi trasgredire, non farti. Lei racconta in questo libro, ma anche nel blog e in tante altre occasioni, anche istituzionali, va in giro nelle scuole, per esempio, a parlare ai ragazzi su quello che è capitato a te, Giorgia, nel tuo incontro con la droga. Hai rischiato la vita anche tu. Esatto, era lontano 99, avevo compiuto da poco 17 anni e assunsi mezza pastiglia di ecstasy. Ecco, stiamo ascoltando Jimi Hendrix, che di droghe se ne intendeva, sicuramente le ha messe a profitto perché ha fatto una grande produzione artistica, però a parte questi casi eccezionali con le droghe non si scherza assolutamente, diciamolo subito per non fare dire fesserie, ecco, da questo punto di vista. Quindi tu a 17 anni, hai detto, hai preso una pastiglia di ecstasy, e che cosa ti è successo? Ho avuto il fegato che è andato in necrosi e nel giro di una settimana ho dovuto subire un trapianto di fegato. Pensa tra l'altro che il mio è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo. Il primo era avvenuto in America, i medici non sapevano come comportarsi, chiamarono quindi i medici in America, sì, e decisero quindi di optare per questo trapianto, ma i miei genitori dissero che avevo soltanto il 25% di possibilità di farcela. E invece ce l'hai fatta alla grande, una pastiglia di ecstasy, cioè vi rendete conto? Perché noi oggi, anch'io tante volte, scherziamo, alleggeriamo un po' sul discorso delle droghe leggere, perché abbiamo questa tradizione a parlare dello spinello come una cosa ammissibile, ci sono tanti anche medici che dicono che non fa più male di una sigaretta, però poi lì si rischia di allargare il discorso a mettere, a familiarizzare e a consentire altre droghe che invece sono pericolosissime. Ma guarda, io sono dell'idea che purtroppo si perde troppo tempo a parlare di, appunto, marijuana, quando in realtà bisognerebbe focalizzarsi su droghe che purtroppo i ragazzi usano e consumano costantemente. Cioè, ad oggi per i ragazzi sono diventati policonsumatori occasionali. Cosa vuol dire? Che assumono sostanze diverse, diversificate, ma non necessariamente tutti i giorni, possono farlo anche una volta a settimana. L'ecstasy non è come l'eroina, non ti crea una dipendenza fisica per cui tu devi farne un uso continuativo nell'arco della giornata. Puoi anche usarla una volta al mese e ti fai il tuo sballo e continui a condurre una vita, tra virgolette, normale. Quindi per i genitori diventa ancora più complicato capire se il proprio figlio fa uso o meno. Perché non è, un genitore come fa? Io ho una figlia di 6 anni, quindi è un po' presto, fortunatamente, però arriverà il momento in cui dovrò passare notti insonne pensando a questa possibilità, no? Guarda, come si fa? Che già a 8 anni ci sono ragazzi che vanno su internet a ricercare la parola droga. Ecco, vabbè, adesso mi taglio le vene perché dopo ma detto perché? Questo. Perché viviamo in una società dove i media e dove i social network fanno da padrone, per cui la parola droga gira e rigira in continuazione e i bambini sono curiosi, quindi vogliono capire di cosa si tratta. Ed ecco allora che è importante che arrivi qualcuno che glielo spieghi in maniera corretta e non in maniera fuorviante. Ecco, ma esiste un solo tipo di ecstasy oggi in circolazione o ce ne sono tanti tipi? Cioè è possibile che, guarda, Adele per esempio abbia preso una pasticca particolare, oppure proprio cioè qualunque tipo di MDMA ha quel tipo di conseguenze rischiose, come è successo a te e come è successo per esempio ad Adele? Nel mio caso per esempio era tagliata con veleno per topi e piombo, sostanze che avrebbero mandato in necrosi il fegato di chiunque. Però ricordiamo il caso di, per esempio, Lamberto Lucaccioni, che assunse MDMA. Tu sai meglio di me che l'ecstasy, il principio attivo dell'ecstasy è l'MDMA, sì, però poi ha anche l'anfetamina e sostanze da taglio, mentre l'MDMA non ha sostanze da taglio. Ecco allora che Lamberto è morto per edema cerebrale, edema polmonare, proprio senza il fatto che ci fossero delle sostanze da taglio. Cosa significa questo? Che la droga può essere pericolosa tanto quanto nel principio attivo, tanto quanto nelle sostanze da taglio. Dipende da persona a persona, dipende appunto dal singolo soggetto. Torno a esprimere la mia preferenza per lo spinello, perché lo spinello, tu da genitore anche, io sto passando, anche se ho una certa età a questo punto, 46 anni, a essere diciamo figlio potenziale consumatore controllato da un genitore di spinello, a essere controllore di mia figlia, quello succederà in futuro. Cioè lì lo vedi, te ne accorgi, perché ci sono la pupilla che si dilata, i riflessi che rallentano un pochino, la risata facile, lo capisci e magari cominci a prendere confidenza. Attento con però l'estasi, perché i ragazzi sono furbi, quindi a quel punto che cosa possono fare? Possono andare in farmacia, acquistare il collirio, metterselo negli occhi, certo, e già è più difficile scoprirlo. Invece per l'estasi, per questo tipo di droga, ci sono dei segnali che un genitore può cercare di cogliere? Allora, quello che posso consigliare io è quello di puntarsi la sveglia quando i propri figli vanno fuori la sera, la notte, perché l'unico modo per scoprirlo è prenderli nel momento in cui sono fatti, sostanzialmente. Quando tornano. Cioè, esatto, quando tornano dalla discoteca, se gli fai una chiacchierata con loro e c'è la luce accesa e le pupille rimangono dilatate, non si ristringono, cosa che dovrebbe pupille accadere. Pupille dilatate, scrivo. Esatto, cosa che dovrebbe accadere se la luce è esposta agli occhi. Se non avviene, vuol dire che questa persona ha fatto uso o di ecstasy o di chetamina o di anfetamina o di, insomma, sostanze sicuramente sintetiche e comunque droghe pericolose che possono portare alla morte o a danni irreparabili. Giorgia, dicevamo che tu giri anche nelle scuole parlando con i ragazzi, cercando di prevenire anche quello che è accaduto per esempio ad Adele. Cosa provi ogni volta che c'è un caso di cronaca come quello? Cosa ti viene in mente? Allora, guarda, ti dico che tanti anni fa, io sono 11 anni che mi occupo di prevenzione giovanile nell'ambito delle sostanze stupefacenti, quando ero più piccola la vivevo come una sconfitta. Ad oggi ti dico che sono veramente tanti ragazzi e purtroppo di prevenzione se ne fa troppo poca, per cui non posso arrivare a tutti. E quindi il mio intento è quello di riuscire ad arrivare a più persone possibili. Purtroppo queste cose accadono e accadono più spesso di quanto possiamo immaginare, perché i media oggi si stanno, tra virgolette, accanendo su questo caso, ma 2 mesi fa sono morte altre 2 ragazze sempre a Genova e durante l'anno, nel mio blog, lo scrivo spessissimo, sono avvenuti altri decessi sempre per ragazzi che avevano intorno 17, 18, 20, 21 anni. E purtroppo però a volte se ne parla, altre volte va nel dimenticatoio. Il problema c'è? È grande e io penso che bisognerebbe fare qualcosa. Il problema è che io sono 11 anni che si continua a parlare sempre delle stesse cose. Legalizzare, facciamo una legge, non facciamo una è legge. È giusto secondo te legalizzare eventualmente? No, assolutamente no, io sono contraria alla legalizzazione, anche perché se tu permetti di legalizzare una sostanza, il ragazzo, l'adolescente stesso, è trasgressivo per natura. Quindi andrà a ricercare un altro tipo di trasgressione, e a quel punto cosa sarà? Sarà ecstasy? Sarà una droga ancora più pesante? Ma quando si parla, per esempio, di prevenzione, come dicevi tu, se ne fa troppo poca nelle scuole, è vero, sicuramente è vero, ma tu che lo fai, io ti chiedo, secondo te servono veramente questi incontri, oppure, come dire, magari confermano quei ragazzi che già non sono interessati alle droghe, vedono che ti vedono parlare e si convincono ancora di più, però magari quelli che sono già partiti per, diciamo così, per la tangente, è difficile riacciuffarli con questa modalità frontale, oppure sì. Significa arrivare prima che il problema persista, ci sia, il che significa lavorare alle medie. È anche vero che io comunque non mi tiro indietro, vado anche alle superiori e ti dico che i ragazzi non sono stupidi, quindi se tu riesci a coinvolgerli, io parlo con loro non solo attraverso la testa, ma soprattutto cerco di raggiungerli al loro cuore e quindi piano piano li coinvolgo direttamente in prima persona. Quindi vado a smantellare tutti i loro credo, tutte le loro false informazioni, falsi miti che si sono creati attraverso i social, anche perché i ragazzi non vanno su forum scritti da tossicologi esperti come www.droganet.org, ma vanno su portali, forum scritti da ragazzi che magari hanno 3-4 anni in più di loro, semplicemente perché hanno avuto 10 esperienze in più di loro, si sono calati 10 pastiglie, hanno una piantagione in casa di Maria, pensano di saper tutto sulle sostanze ed ecco allora che poi si vanno a tramandare quei falsi miti, quelle false informazioni. Quindi con il sorriso, con la calma si dialoga con loro e poi male non fa, e poi male sicuramente no, dico, non guarda, può provocare danni. Sono 10 anni che faccio quello che faccio, se non ho smesso, perché comunque per me non è facile, se non ho smesso è perché la prima... come posso dirti, sono loro che mi continuano a chiamare, a contattare, che vogliono che io ti danno come una conferma del fatto di che quello che racconti arriva, viene recepito. Ma sì, in questi 11 anni basta andare su Instagram, su Facebook, vedi le cose che mi scrivono, sono tutti ragazzi, sono solo esclusivamente ragazzi. Ma in questi 11 anni come hai visto cambiare le generazioni e anche il consumo di droga? È aumentato, è diminuito, si è abbassata l'età, per esempio, si dice anche ogni tanto. Esatto, si è abbassata l'età in maniera mostruosa, io ti dico che già in prima media, seconda media ci sono ragazzi che fanno uso e a volte anche abuso di sostanze e questa è la cosa più drammatica in assoluto. E poi, a differenza di tanti anni fa, i ragazzi di oggi hanno questa necessità di essere ascoltati, supportati. E me ne rendo conto perché io ricevo 30, 40, 50 messaggi al giorno, ma non necessariamente mi chiedono aiuto sulle sostanze o sull'anoressia, bulimia o su argomenti, insomma, autolesionismo, insomma, argomenti che per loro sono importanti, ma spesso anche solo per parlarmi di cose più semplici, come la litigata con un'amica, piuttosto che la scuola che non va, cose di tutti i giorni. E allora lì capisci che hanno bisogno di essere ascoltati. Allora spesso dico ai genitori di smetterla di sentire i propri figli, ma soffermarsi ad ascoltarli, perché c'è una netta differenza. Grazie Giorgia Benusiglio, speriamo di continuare a sentirti tante altre volte nelle scuole italiane a raccontare la tua storia. Grazie, buona serata. Grazie a te, buona serata a tutti. La sintesi della giornata però la fa Di Battista in questa frase. Oggi la sovranità di cui parlate tanto è stata minata, colpita, distrutta dal vostro appunto intervento militare di qualche anno fa. I francesi si sono di fatto beccati il petrolio, noi ci siamo beccati i barconi. Marco da Bergamo, buona serata. I francesi il petrolio e noi i barconi. È un po' così che sta andando in questo momento. Vai Marco. Sì, buonasera. Beh sì, questo è un classico. Di solito noi siamo sempre a ruota e a noi vengono lasciate le briciole, ma non era tanto questo il senso del mio intervento, quanto piuttosto volevo ringraziare il procuratore di Trapani nella maniera più sentita, perché sono anni che noi ci sentiamo dire che regolarmente le ONG effettuano salvataggi e le parole sono importanti, come diceva un famoso regista, mentre invece lui ha detto che nel caso della ONG indagata, ma noi possiamo presumere che non sia l'unico caso, molte volte non si trattava di salvataggi ma di trasbordi, e i trasbordi significano favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ogni trasbordo che c'è stato in questi anni però è io stato questa, un reato. Io vorrei capire, anche grazie a voi ascoltatori, esattamente dove passa la differenza tra salvataggio e trasbordo, perché è una parola è chiara la parola, però cosa, cioè, in che cosa è diverso un trasbordo da un salvataggio? Il procuratore lui l'ha detto durante la conferenza, cioè lui ha detto che sì, nel momento in cui le persone che vengono passate dal gommone o dalla nave o dalla barca dove sono alla nave che è lì davanti a loro non sono in imminente pericolo di vita, perché questo prevede il nostro codice penale italiano, non sussiste la scriminante. Quindi se non sussiste la scriminante, il reato sussiste. Forse non mi sono spiegato bene. No, si è spiegato benissimo. Cioè, la barca dell'ONG arriva, la nave, affianco a un gommone che non è in balia delle onde, che non sta affondando, dove non ci sono persone che rischiano direttamente in quel momento lì la vita, avviene il trasbordo. Ecco che questo è come se l'ONG fosse l'ultima catena dell'anello dei trafficanti, no? Certo, vieni qua certo, che ti porto anche a bordo. Perché il tutto avviene sulla base di un appuntamento, sulla base di un raccordo telefonico, quindi insomma è una catena che però non c'entra nulla con il salvare le persone. Però scusa un attimo, scusa Nino, è Nino? Sto parlando con Nino o con Marco? No, con Marco, scusa Marco. Questo ragionamento però, come dire, taglia fuori quello che accade prima, no? del momento in cui la nave dell'ONG si incontra col barcone dei migranti. Cioè, parliamo comunque di persone che stanno in mano ai trafficanti, che in Libia stanno spesso in campi di detenzione, che hanno rischiato la vita e potrebbero rischiarla un'ora dopo, quando il mare si alza e i barconi, come è accaduto, affondano. E allora ecco che la distinzione tra salvataggio e trasbordo è... per me è labile, ecco, mettiamola così, ma è solo io forse che non lo capisco. No, però mi permetta di dire questo, cioè se noi dobbiamo immaginare che per ogni persona che ritroviamo in mare o sulle coste, sì, dobbiamo prendere in considerazione i pregressi degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, delle ultime settimane, degli ultimi anni, sapere se hanno subito violenza o meno, sapere se sono stati costretti ad arrivare lì oppure se l'hanno fatto liberamente, lei capisce che diventa un... come dire, una questione praticamente. Io credo però che si riconosca a occhio, insomma, questi barconi non hanno l'aria di una barca di festa, di uno yacht nel quale la gente sta facendo una vacanza. Questo credo che si riconosca ad occhio. Comunque, dal punto di vista legittimo, e tra l'altro l'ha espresso il procuratore, ci mancherebbe altro. Grazie Marco, grazie mille, buona serata. Borsa, torniamo tra poco, 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Alle 19.35 è il momento di Luca che chiama da Milano. Benvenuto Luca. Ciao. Ciao. Allora, io volevo agganciarmi al discorso della telefonata precedente, quella ragazza che evidentemente ha subito un grosso trauma dall'esperienza negativa che ha avuto. Sì. Però evidentemente non le è servito a cogliere l'essenza del problema. Allora, il dire fa male come deterrenza non funziona. Non funziona perché la maggior parte dicono o pensano: tanto mica capiterà proprio a me, no? Sì, oppure se uno è attratto da quella cosa lì, il fatto che faccia male passa in secondo piano perché c'è l'attrazione. È quello che temo anch'io, che queste lezioni frontali possano non servire. Però male non fanno. Capiterà, dice, non capiterà certo a me. Io, tra tutti quelli a cui può accadere, sono così pochi quelli che stanno veramente male. A me sicuramente non accadrà. Comunque. Sì, però mettiamola così: se anche ci fosse qualcuno un po' indeciso in quel momento lì, un po' debole, che non sa decidersi se entrare o non entrare in quel giro lì, ma anche ce ne fosse uno che si fa convincere da una come Giorgia, che gira nelle scuole spiegando quello che è accaduto a lei, benvenuto, benvenuto. Certo, ci mancherebbe. Però quello che voglio dire è che bisogna ribaltare i termini della questione, ovvero non fa male, quindi non devo farlo. Non serve per ottenere lo scopo che si prefigge la droga. Ovvero, cosa serve la droga? A raggiungere degli stati mentali altrimenti irraggiungibili senza l'ausilio di quelle sostanze. Cosa che tu sai fare, secondo me. Ecco, cosa diceva? Allora, voglio rifare a un grandissimo cantante, anche personaggio musicale, che è morto molto giovane per questo motivo, Jim Morrison. The Doors. Beh, però lui però si drogava. Cos'erano The Doors? The Doors of Perception. Lui cosa diceva? Che attraverso l'acido avrebbe aperto queste porte della mente umana alla comprensione di cose che altrimenti sarebbero state incomprensibili. Intanto, scusa, mi fanno notare dalla regia, giustamente, che sembri Enrico Ruggeri da giovane con questa voce che hai, Luca? Ah sì? Te l'ha mai detto nessuno? Oh, ce l'hai un po' così. Lo conosco anche Enrico Ruggeri. Siete amici, vai. Sono amici i nostri due papà, vabbè. Però scusami, stavi parlando di Jim Morrison, però lui alcol e droga ci ha dato dentro. Ma non ho capito dove vuoi arrivare col discorso dell'acido. Lui diceva, Doors of Perception, diceva che le porte della percezione si sarebbero aperte attraverso l'acido. Quindi la domanda forse è: ma veramente solo attraverso queste sostanze possiamo raggiungere questi livelli di stato mentale, di comprensione di certi fenomeni? Dimmi che tu ce l'hai la risposta. No. Ecco. La risposta è chiaramente no. E come altro si fa, allora? Allenamento. Allora, l'allenamento non è più solamente, come si diceva 2000 anni fa, mens sana in corpore sano. L'allenamento serve a evolverci, ad acquisire consapevolezza di quello che siamo, dei nostri limiti, dei nostri pensieri. Cosa intendi per allenamento? Qualunque tipo di sport fatto con con consapevolezza, però. Cioè, tu dici che se vai a correre per un'ora, alla fine ti senti un po' come Jim Morrison dopo un acido, sei in acido praticamente. Acido lattico. No, un'ora non basta, avere un programma, di avere degli obiettivi nello sport per raggiungere una certa consapevolezza mentale oltre che fisica. Tu fai sport, Luca? Tu fai sport? Sì. Che sport fai? Sì. Ma attualmente mi sto allenando a nuoto, quest'anno ho fatto la mia prima maratona. Mi sto allenando per fare calisthenics. Per fare? Calisthenics è una disciplina che si fa alla sbarra. Diciamo che è una ginnastica artistica alla sbarra semplificata. Però allora chiariamo un attimo questo stato mentale che tu raggiungi facendo lo sport. Secondo te è uno stato mentale di che tipo? Di che tipo rispetto? No, infatti ti sto chiedendo di che tipo rispetto a chi invece con le droghe raggiunge uno stato mentale a volte di nullità, no? Perché si cerca... non è uguale assolutamente. E cos'è? Com'è? È un altro tipo di sensazione che però tende sempre a superare quei limiti mentali che le convenzioni ci pongono. Lo so che forse sono un po' complicato. Sei un po' complicato, però ti stiamo seguendo. Posso farti un'obiezione, però è molto più faticoso fare quello che fai tu. Perché è molto più facile. Allora è quello il discorso. Non valgono le scorciatoie. Le scorciatoie non valgono. Neanche in questo caso. Certo, raggiungere lo stato mentale... Vabbè, a parte che ci sono anche delle tecniche meditative, dello yoga, per esempio, per raggiungere certi stati mentali. Ma tu adesso vieni da un allenamento, Luca, perché hai un andamento di uno che sembra molto allenato, per dirla nella maniera tua. Attualmente ho dovuto interrompere perché ho un po' di mal di schiena. Però quello ci sta, quest'anno ho allenato tanto, perché è una maratona, siccome soffro di mal di schiena da più di 20 anni, però non prendo medicine. Per esempio. Ma tu, Luca, per esempio, a parte questi allenamenti che stai facendo adesso, che hai dovuto interrompere per il mal di schiena, in passato... Yeah. Ma in passato, sì. hai mai assunto qualche canna? E una volta giusto per provare, ho fatto un tiro di cocaina, ma cosa devastante. Allucinante. Che non mi ha fatto nemmeno l'effetto per cui viene tanto reclamizzata. Siccome ho anche bevuto, mi ha acuito esponenzialmente gli effetti dell'alcol. Cioè, nausea, giramento di testa. No, come se fossi ubriaco perso. Mentre in realtà ho bevuto un pochettino, ma neanche in modo eccessivo. Ma bevi ancora ogni tanto? Un po' di alcol, così, una birra. Sì, assolutamente. Meglio Bevo per accompagnare il cibo, perché mi piace il gusto. Sì, meglio una bella birra o farsi una corsa di mezz'ora? A parte che la birra serve tantissimo come integratore dopo aver corso. Ah sì? Questa è nuova. Perché ha dei sali minerali che contribuiscono proprio a questo. Ma che birra bevi tu, quella birra con i sali minerali? Questa non lo sapevo. Voi lo sapete, ragazzi? La birra che contiene, i sali... come alimento contiene dei sali minerali. No, voi di là in regia ridono, però alimenti. Dovete sapere, scusa Luca, glielo dico, dovete sapere... Lo so che rideranno perché sono abituati a pensare in modo convenzionale, non puoi dare i temi, sono un po' rigidi mentalmente. Sono abituati a pensare che una bella birra uno si rilassa e non ci pensa più. Non è che la bevi come integratore, la bevi e basta perché ti fa piacere, non perché non c'è la scusa dell'integratore, dai. Ma mi fa piacere se bevo la birra, perché mi piace come gusto. Come gusto, sto scendendo l'idea. Mentre lo sballo generalmente non badi al gusto, badi solamente allo sballo. Però cos'è lo sballo? Perché alla fine la cosa che non capisco è effetto psicotropo. Esatto, effetto è annullarsi, psicotropo. Andare in un'altra dimensione. Effetto psicotropo. E tu lo raggiungi correndo, ma forse perché non hai fiato abbastanza. No, non è psicotropo. Si raggiungono degli stati mentali di comprensione di certe cose per come lo teorizzava Jim Morrison. Ma chiaro che oggi un tamarro che si fa 2 grammi di cocaina il sabato sera non ci pensa neanche lontanamente a Jim Morrison, lo fa solamente per spirito di emulazione, perché è di moda. Cioè, si è perso anche quel senso culturale che c'era ai tempi di Woodstock. cioè la conoscenza anche di quello che c'è prima, esatto, durante e dopo, anche un momento in cui bisogna distinguere tra droghe naturali, droghe chimiche. Cioè, in realtà il discorso è molto complesso. Dire solamente è uno sballo, va, può far male, non fatelo per quello. Io propongo che Luca, scusami Luca, scusa un attimo, scusa. Io propongo che tu accompagni Giorgia Benusiglio a fare questi corsi nelle scuole, perché secondo me quello che racconti tu potrebbe essere, diciamo, complementare a quello che racconta lei, perché tu racconti un altro. Ma lei sicuramente racconta l'effetto negativo che ha avuto su di lei, che chiunque rischia assumendo una roba sintetica. Va bene, grazie, ciao Luca, buona serata, ciao ciao ciao. Interessante Luca, interessante. Nino da Roma, ciao, buonasera. Aspetta, io volevo esprimere la mia solidarietà per quello che può valere per quel sindaco di Licata, sì. Però dico questo, a mio giudizio queste persone lì in Sicilia, questi balordi, non si fermeranno solamente alle minacce, perché io da siciliano, insomma, ho vissuto metà della mia vita in Sicilia. Se è vero che gli hanno già dato fuoco alla casa dei parenti, dei genitori, infatti vive sotto scorta, il sindaco Cambiano vive sotto scorta, già. Lo so, però a mio giudizio ora, prima che venga tolto dalla scena politica, mi auguro solamente come politico, a mio giudizio il ministro o chi per lui doveva già intervenire, doveva sciogliere quel comune per mafia, ma già lo doveva fare, nominare questo benedetto sindaco immediatamente come responsabile. Massa lo doveva mettere al posto del prefetto o qualcosa del genere, insomma io sono un ex camionista, non è che ci capisco tanto, perché se non si dà piena protezione ad una simile persona è inutile che noi aspettiamo i siciliani che vanno lì sotto al comune a manifestare. Certamente lui va non difeso, però bisogna, perché mi creda, guardi, non ci andranno perché lì si conoscono tutti. Se ci vado io là a manifestare al paese dove sono nato, mi cominciano a dire che sta facendo qua, perché non te ne vai a Roma? Cioè non è così, purtroppo. No, come non è così? È proprio così invece, è proprio superando questo. Non ci andranno, guardi, non ci andranno a fare le manifestazioni. Guardi, se non ci vanno, se non ci vanno, hanno già perso, questo bisogna dirsi. Ma io lo so, purtroppo c'è da capire quella situazione. Mi creda, non ci andranno. Se lì ci andrà qualcuno, qualche povero cristiano ben pensante che si esporrà e gli cominceranno a dire ma che sta facendo dopo, lei lo deve andare a casa. Cioè non è così, mi creda, la Sicilia è un altro mondo, come la Campania, sono due mondi diversi dal resto dell'Italia, dal resto del mondo, viaggiano in altri binari. Se lì non interviene il governo con persone anonime per dare legalità in queste due regioni, la mia Sicilia compreso, ci vogliono delle persone anonime. Non appena stabilita, cioè i balordi devono capire che non c'è più aria. Loro si nutrono di potere, si nutrono questa gentaglia di paure, di timore della povera gente. Assolutamente, assolutamente. Quindi deve intervenire lo Stato. Ma guardi, io l'ho già detto all'altro ascoltatore, lo Stato è già intervenuto nel momento nel quale c'è una sentenza della magistratura che il sindaco fa rispettare. Questo è anche lo Stato. Poi ci vuole anche lo Stato, il sindaco è sotto scorta e lì lo Stato c'è pure. Lo Stato in questo momento c'è. Ci devono anche essere i cittadini, però. Grazie Nino. Intanto sulla telefonata di Luca arrivano degli sms, parecchi commenti. Un'ascoltatrice che dice: confermo gli effetti euforizzanti dello sport e segnatamente della corsa, produce endorfine. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il governo apre un'istruttoria sulle mosse dei francesi di Vivendi dentro TIM. Il ministro Calenda: non è ritorsione per Fincantieri, ma proteggeremo i nostri settori strategici. Sequestrata a Lampedusa la nave ONG Juventa. I magistrati di Trapani indagano su contatti con scafisti. Via libera la missione in Libia, un pattugliatore italiano in acque libiche. Sui vitalizi duro, botta e risposta alla Camera tra la presidente Boldrini e Di Battista, 5 Stelle, che viene espulso dall'aula. Si scalda la campagna elettorale per la Sicilia. sul terremoto andare avanti più veloci, così Mattarella oggi nelle zone colpite. Scelti i progetti finanziati con i 32 milioni raccolti dalla Protezione Civile, gran parte attraverso gli SMS. La Casa Bianca è una catapecchia, lo ha detto Donald Trump ad alcuni amici al Club del Golf. Nel pomeriggio ha firmato le nuove sanzioni alla Russia per interferenze nella campagna elettorale. Emergenza siccità nella maggior parte delle regioni italiane. È il grande caldo, mette a rischio le preziose riserve d'acqua dei ghiacciai. Siamo andati a vedere la situazione della Marmolada. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Dedicata a Luca di Milano, naturalmente. Andiamo con Roberto. Chiama da Lodi, vai Roberto. Chiamo da Lodi, hai messo i Doors e poi in onore di Luca alle porte della percezione. Sì. No, perché è iniziato il discorso un po' della coscienza, Luca, e della felicità. Cioè non ho sentito in tutti i discorsi di prima il fatto che uno comunque fa queste cose per una situazione di benessere, di aumentare il proprio piacere, cioè di vivere più piacevolmente. Quindi ha ragione quando dice che a volte mettere soltanto davanti un divieto, cioè far sapere che è pericoloso, noi non guardiamo il lato della pericolosità, ma guardiamo il fattore di cosa ci potrebbe anche per un momento far star bene, far star meglio, perché abbiamo un senso particolare che è la felicità, che io penso, e non solo io, che sia un settimo senso. Cosa? Abbiamo il tatto. E la felicità non è un attimo, una questione di vivere una certa cosa, ma è un senso che ti porta a essere in un certo modo. Cioè, quindi secondo te la ricerca attraverso una droga, per esempio, di questa felicità, attraverso un percorso, è ammissibile in qualche modo, quasi legittimo, giusto? Qui puoi anche usare i termini legittimo. No, sbagliato parola, è possibile e può non essere sbagliato. Non voglio contrastarti, però è una cosa da capire. Sì. Cioè, finché noi non capiamo come funziona, sì. Se io non capisco come funziona la macchina, come faccio a guidarla? Se io non capisco come funziona la mente, come faccio a guidarla? E per conoscere come funziona la mente, le droghe possono aiutare, ma tu l'hai fatto? No, tu lo fai? No, aspetta, no, io non ho detto questo. Io capisco che la mia mente può cercare, se qualcuno mi dice che la droga mi dà questa cosa, sì, andare a cercarla. Ma io per esempio penso che la droga in certe situazioni possa essere, se c'è un percorso di conoscenza, che uno sperimenta una sostanza sapendo quello che assume, un po' come quando uno si beve qualche cosa di alcol, che sai quello che stai facendo, se vai incontro a un'esperienza in cui sai quello che fai, perché cerchi uno stato di benessere, quello è, non, come fai a condannarlo? Cioè uno fa quello che gli pare della propria vita. Il problema è quando c'è l'inconsapevolezza, che assumi una pasticca di estasi così all'improvviso, perché chissà cosa credi di fare e poi ti ritrovi. Come te, però c'è, ecco, sulle droghe, e specie in quelle sintetiche, è un terno all'otto, cioè, non sa cosa uno va a fare, non c'è assolutamente un percorso, ma i percorsi che hai parlato prima. Infatti da quelle droghe bisogna stare alla lontanissima, perché non sai, hai sentito Giorgia, esatto, aveva preso una pastiglia di estasi mezza, tagliata col piombo e il veleno per topi, e gli ha mandato in necrosi il fegato. Sono fatte in maniera assurda, però bisogna sempre chiedersi il perché uno fa certe cose e come si possono ottenere magari risultati in maniera alternativa. Cioè da tempo l'uomo ricerca un po', no? La ricerca della felicità non l'ho inventata, però alla fine la smettiamo anche di cercare. Queste possono sembrare scorciatoie, ma fa parte del nostro modo di pensare, del nostro cervello, del nostro DNA, che siccome ci fa ricercare il cibo, ci fa ricercare uno stare bene. A volte ci accontentiamo nella nostra vita di altre cose, sono giuste poi quelle cose che ha detto delle endorfine, dello sport. Sì, questo l'ha detto Chiara, un'ascoltatrice che è anche una runner. Grazie, grazie a te Roberto. Andiamo con Massimo da Milano, vai. Sì, buonasera. Allora, io volevo soltanto raccontare un'esperienza. Intanto volevo dire che mi sembra di ascoltare il messaggio, mi sembra di capire il messaggio di si inizia con lo spinello e si finisce al buco, che è una retorica ormai, secondo me, superata. Perché ti sembra di capire questo? Io ho fatto un riferimento a questo. Ho detto che a volte prendiamo troppo alla leggera le cose. Non è una rampa, diciamo. Ma scusami, scusa Massimo. No. Proprio perché anch'io sono d'accordo con te che questa cosa qua forse era vera in passato, che questa visione delle cose. Forse oggi bisogna pensarla in maniera diversa. Questo è il dubbio che mi è venuto. Guarda, io ti posso dire per esperienza personale, sono un ex drogato di ogni cosa. Dall'hashish alle pastiglie, ai cartoni, al crack, cioè io l'ho passate veramente tutte, ma è tutta colpa mia, non è colpa di altri. Ma ti è andata anche bene perché sei qua, sì, tranquillo, che stai parlando con noi. Ho 41 anni, faccio l'autista, sono la persona più sana, faccio ogni 6 mesi le visite per legge, a sorpresa, sono sempre stato pulito, non ho più. Mi sono, tra virgolette. E ciò nonostante ti reputi un ex drogato, hai usato questa parola? Sono ancora drogato, ma di altre cose. Sono un drogato di donne, sono un drogato di, ahimè, delle macchinette, delle slot machine. Aia. Lo so, ma tutto. Io vorrei tutto, sapere cosa c'è da divertirsi. Si chiama gioco, ma io vedo che non c'è nulla da ridere. È una cosa tristissima. Non è il gioco, la parola dopo, azzardo. Perché non è il gioco che ti diverte. Vediamo questa volta se vinco, così. Il rischio, l'adrenalina di puntare forte e ci sarà una chiamiamola droga che anche te ti piglia, no? Non lo so, il provare con una donna a vedere se riesce a conquistarla. Quello delle donne sicuramente sì, pur essendo sposato cerco di... Penso di realizzarla con mia moglie. Dopodiché, non è una frase fatta, ogni, la verità. Dopodiché io le mie esperienze le ho fatte, anche io. Oh, boh, perfetto. Allora sappiamo di cosa parliamo. Io sono partito, diciamo, da droghe pesanti fino ad arrivare a una certa età a tranquillizzarmi. Negli anni ho affinato un po' il discorso della droga. Cioè, in senso, ho capito perché lo facevo. Intanto perché ero stupido, questo sì. al di là di ogni cosa, no? Perché ero stupido, perché volevo provare, curioso, mi incuriosiva. Quando l'avevo provato mi era sembrato divertente. Non vorrei far passare il messaggio che è una cosa positiva, è una cosa negativa, assolutamente. C'è un ascoltatore che scrive: cazzo, io non ho mai preso niente, stasera ad ascoltarvi mi sento una vera merda. Forse ironico, sicuramente ironico, ma in realtà non è così, perché non è che chi ha preso le droghe è più figo di chi non le ha prese. Ognuno fa un suo percorso di ricerca della felicità, del benessere, di tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Se in questo percorso con conoscenza c'entra anche, come stavi raccontando tu o l'ascoltatore di prima, una sostanza, ce ne sono tante di sostanze in giro che riteniamo più o meno giuste, più o meno naturali, più o meno delle droghe, a volte anche una convenzione, non c'è niente di male. Poi uno può anche passarci intorno e vivere una vita bellissima, migliore della nostra, eh? Che dici, oggi, Massimo? Però posso dire che a 41 anni mi sento drogato della vita, cioè in senso, Le ho provate tutte, ne sono uscito grazie al cielo indenne. Oddio, qualche cellula l'ho persa per strada. Io con questa però... frase quasi quasi mi alzo e me ne vado, perché mi sento drogato della vita, è bellissima, è una chiusura perfetta, Massimo, per questa sera. Grazie. Ciao. È felice. Ciao, grazie. Ed è però tutto anche per questa puntata, per questa sera. Io ringrazio come sempre Cristian Goldoni, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, Andrea Roccabella in regia. Ci risentiamo domani 18:20 e ciao da Alessio Maurizi, buona serata, ciao.